602. Focaccia coi siccioli. Farina grammi 500, zucchero in polvere fine grammi 200, burro grammi 160, siccioli grammi 150, lardo grammi 60, marsala o vino bianco, cucchiaiate numero 4, uova 2 intere, 2 rossi, odore di scorza di limone. Formata che avete la pasta, lavorandola poco, uniteci i siccioli sminuzzati, ungete una teglia di rame col lardo e versatecela, pigiandola con le nocche delle dita, onde venga vernoccoluta, ma non tenetela più alta di un dito. Prima di passarla al forno, fatele, se dopo cotta volete servirla a pezzi, dei tagli quadrati con la punta d'un coltello, ripetendoli a mezza cottura perché facilmente si chiudono, e quando sarà cotta, spolverizzatela di zucchero a velo.